24 Mattino. Ma questa concessione ad Autostrade è una concessione in eterno? Io credo che ci sia una scadenza. L'importante sarebbe in questo momento, se proprio non si vuole rinnovare questa concessione, dire a scadenza non la rinnoviamo, non abbiamo intenzione di rinnovarla. A questo punto, Simone, è evidentissimo che la magistratura fa politica e fa ovviamente solo una politica. Sì, buongiorno. Quello che mi chiedo è se è corretto che la Consulta si esprima dicendo che è irragionevole negare l'iscrizione all'anagrafe e non che è illegale. La Consulta non credo che debba esprimere giudizi di ragionevolezza, ma giudizi di legalità. Un po' di spunti. Allora, innanzitutto, la scadenza naturale, la scadenza da contratto della concessione di Autostrade è nel 2038 e quindi è lunghetta, sono altri 18 anni. Ed è per questo, ovviamente, che il problema se lo pongono politicamente. Sulla questione del far politica o non far politica, non lo so, c'è la coincidenza di queste, come diciamo prima, di queste due sentenze della Corte Costituzionale, la prima su Autostrade e la seconda sulla questione dell'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, dove vengono bocciate le norme del decreto sicurezza, che in parte sembrano poter dare una mano alla maggioranza. Di qui a dire che la Consulta fa politica, ne corre. Del resto, su quella norma c'erano dei dubbi di costituzionalità fin dall'inizio, li aveva segnalati anche la Presidenza della Repubblica. Parla la Consulta sì di effetti irragionevoli, come dice l'ascoltatore, anche di effetti intrinsecamente irrazionali. Perché? Perché fanno sì che tu, non potendo iscrivere all'anagrafe i richiedenti asilo, in realtà tu abbia meno controllo su queste persone e dunque in quello che dovrebbe essere un decreto sicurezza realizzi un paradosso. E però la Corte Costituzionale dice anche che c'è una violazione della Costituzione perché è una discriminazione. Così dice la Consulta. Questa è la seconda parte di 24 Mattino e lo spiega bene, già che siamo a ridosso della rassegna stampa. Ve lo segnalo, il pezzo migliore mi pare quello di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a pagina 11, quello un po' più chiaro e che entra nel dettaglio anche sui... chiamiamoli retroscena di questa scelta. Sono le 7:23 minuti, come si diceva, di venerdì 10 luglio, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, con le prime pagine dei quotidiani, al microfono sempre Simone Spezia ovviamente, con le prime pagine dei quotidiani che sono, mi pare, divise in due fondamentalmente, in due tipi, con qualche variazione, le aperture quantomeno. Alcune aperture sono dedicate allo stop agli arrivi da 13 paesi per la questione Covid, ci apre per esempio il Corriere della Sera, ci apre la Repubblica che titola Virus, l'Italia si arrocca, ci apre il Quotidiano Nazionale che scrive Contagi, l'Italia chiude a 13 paesi. Ci sono altri quotidiani invece che montano un po' questa vicenda di Prodi che apre all'ingresso di Berlusconi nel governo... e che sono un po' di cinema politico. Il Fatto Quotidiano, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, citazione della canzone di Battisti, la celeberrima canzone di Battisti con la foto di Silvio Berlusconi alle spalle, Romano Prodi che sembra dargli una spinta in questo fotomontaggio. La Verità che parla di Sinistra in ginocchio da Berlusconi, Libero che titola, l'ipotesi sarebbe questa, è mortadella al colle, Silvio senatore a vita, con Prodi appunto che punterebbe al Quirinale e Berlusconi senatore a vita, l'operazione sarebbe questa. La Stampa ci informa che ci sono 8 milioni di buste paga falcidiate dal coronavirus, in due mesi persi 560 euro a testa. Il Manifesto che apre invece sulla sentenza della Corte della quale parlavamo un attimo fa, Stato civile è il titolo. Il giornale ci dice che Conte si rimangia l'IVA, ossia l'ipotesi di tagliarla, il taglio costa troppo, fine del bluff, dice il giornale. Il Sole 24 Ore ci racconta dell'appello di Italia e Olanda, degli industriali di Italia e Olanda, proprio appunto per l'Europa. Una crescita inclusiva e sostenibile, serve un impegno forte dei leader europei per rafforzare il mercato unico. È questo il titolo. E Avvenire invece apre sulla storia che lo stesso Avvenire, lo stesso quotidiano raccoglie e con la quale apriamo la nostra rassegna stampa. Figli come pegno, l'usura che divora. E iniziamo proprio da qua, iniziamo da questo racconto che è terrificante. Abbiamo spesso detto di come la carenza di liquidità, la difficoltà a trovare soldi, molto semplicemente, stia spingendo in questa fase di difficoltà economiche alcune persone, alcune imprese verso appunto gli usurai, ed è il motivo per il quale poi si è cercato di intervenire con una certa rapidità per facilitare il credito bancario anche con le garanzie dello Stato, però gli ostacoli oggettivamente ci sono stati. Ebbene, che cosa succede? Succede che in alcuni casi gli imprenditori o le famiglie siano costrette appunto a dare impegno ai figli. Che cosa vuol dire? Il racconto arriva dal presidente della Camera di Commercio di Terra di Lavoro, Tommaso De Simone. Terra di Lavoro era una vecchia regione del Regno delle Due Sicilie che teneva insieme un pezzo di Campania, un pezzo del Lazio, un pezzo del Molise. In sostanza adesso è la Camera di Commercio di Caserta. Cosa racconta Tommaso De Simone a Luigi Ferraiuolo, appunto, ad Avvenire. Sono i figli a pagare spesso per le loro famiglie. Non ho nomi da indicare, ma dai racconti di molti operatori economici schifati da quello che sta avvenendo, alla certezza che il fenomeno dell'usura è cresciuto in maniera esponenziale in questi ultimi mesi di chiusura totale e non si è arrestato. Ci sono famiglie che mandano i loro figli e le loro figlie a lavorare per saldare i debiti. Sono costrette ad accettare obtorto collo l'apparente benevola richiesta e speriamo che ci si fermi a questo. È un fatto che l'opinione pubblica deve conoscere, perché l'usura è una bestia travestita da amico caro che, mentre sembra accarezzarti e aiutarti, finisce per strangolarti e ucciderti, sottomettendoti dolcemente. In questo caso nemmeno troppo dolcemente, mi pare. Gli usurai non denunceranno mai gli strozzini. È possibile che altri episodi del genere, scrive Luigi Ferraiuolo, si stiano verificando in altre zone del Mezzogiorno. Del resto, le difficoltà economiche del Mezzogiorno vengono ben rappresentate ancora da Avvenire sulla stessa pagina, in questo caso con un pezzo di Antonio Averaimo da Napoli. I dati su quante persone hanno richiesto il famoso buono spese. La CISL li ha raccolti sulla base appunto dei buoni spese erogati dal Comune di Napoli e dagli altri 91 che compongono il territorio metropolitano. La sostanza è che il buono spese è stato richiesto da 300.000 persone in questo territorio. Questo per dare la misura delle difficoltà che poi rischiano di esplodere. Lo trovate, le cronache un po' su tutti i giornali, delle parole di ieri della ministra dell'Interno, la Morgese, sulla questione appunto dei rischi di un'esplosione, se non di violenza sociale, quantomeno di tensione sociale in settembre. Ci spostiamo e dalla Campania andiamo in Lombardia, dove sono due i fronti sui quali voglio portarvi. Il primo è il procedere dell'inchiesta sulla fornitura dei camici alla Regione Lombardia, fornitura dei camici partita dalla Dama SRL, che è una società di proprietà del cognato di Attilio Fontana, il presidente della regione, e società nella quale la moglie di Attilio Fontana ha il 10%, della società che commercializza la Paul & Shark. Cosa è successo? Che c'era questa fornitura di camici, lo riassumiamo ogni volta perché la vicenda è un po' complessa. C'era una fornitura di camici nel periodo di emergenza Covid. Questa fornitura di camici dall'azienda avveniva, era stata fatturata alla Regione Lombardia. Dopodiché c'è stata un'inchiesta di Report che ha tirato fuori il potenziale conflitto di interessi in questa vicenda e ci sono state le dichiarazioni dei responsabili di questa azienda che hanno detto: guardate, in realtà era una donazione, io ero fuori azienda, i miei si sono sbagliati e l'hanno fatturata. Qual è l'evoluzione di oggi di questa storia? Posto ieri vi abbiamo raccontato che in realtà c'era la firma del responsabile dell'azienda sui documenti che indicavano la fatturazione, quindi il pagamento di questi camici. Il sospetto, un ruolo attivo di Fontana per il cognato, racconta Il Fatto Quotidiano a pagina 15. Insomma, l'idea è che un po', come si dice con un abusato termine giornalistico, il cerchio si stia stringendo e si stia arrivando piano piano al presidente della Regione Lombardia, del quale i magistrati stanno valutando un ruolo attivo in questa storia, quantomeno un ruolo attivo, racconta Davide Milosa, pagina 15, nell'intervenire per far sì che, dopo che Report aveva richiesto e realizzato un'intervista con Attilio Fontana, lo stesso Fontana contattasse appunto l'azienda dicendo che quelle fatture andavano stornate, andavano messe e la cosa andava trasformata in una donazione. Questo è il sospetto dei magistrati, lo mettiamo là appunto come sospetto dei magistrati, vedremo se ci saranno evoluzioni in questa vicenda. L'altra questione lombarda sulla quale vi voglio portare, ieri l'abbiamo fatta un po' di volata, però vale la pena soffermarcisi ancora, è la vicenda del Pio Albergo Trivulzio, perché appunto ieri avevamo le anticipazioni sulle conclusioni della commissione d'indagine che doveva indagare sul numero di morti all'interno di questa residenza per anziani molto famosa in Milano, un simbolo di Milano per certi versi. Ebbene, il giornale a pagina 14 ci dice che apparentemente un po' di panna è stata montata. L'accusa più grave e più diretta viene smontata, racconta Cristina Bassi a pagina 14. Nella documentazione disponibile non si sono reperiti riscontri circa gli asseriti ordini impartiti a taluni operatori di non indossare DPI, dispositivi di protezione, che non fossero stati forniti, e quindi nessuno disse agli operatori di non indossare le mascherine come invece appunto era circolato e qualcuno aveva denunciato. Secondo dato: la mortalità registrata tra gli ospiti del Trivulzio è molto inferiore rispetto alla media delle altre RSA del territorio di Milano e di poco superiore alla media delle morti tra la popolazione generale over 70 della stessa azienda territoriale, un fatto che fa scrivere un pezzo feroce a Maurizio Crippa sul Foglio, il cui titolo dice tutto: il Trivulzio era una balla. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. È molto probabile che tra poco lanceremo un tour elettorale, o un tour delle sardine, un tour politico più elettorale che attraversi tutte le regioni in cui si va al voto, presentando una forma politica diversa, come di fatto è successo in Emilia Romagna, però così continuiamo quello che abbiamo sempre fatto. Caro Paolo Mieli, buongiorno, sei contento che sono tornate? Sono tornate. Le sardine che annunciano tour elettorale nelle regioni in cui si vota. Allora, ti suggerisco la regione da cui partire, che è la Liguria, perché sì, in Liguria c'è il caso Benetton, Autostrade. Siccome loro li avevamo lasciati alla corte dei Benetton, che andarono a farsi fare delle foto di Oliviero Toscani, è vero, come no. E lì potrebbero ripartire dicendolo a loro sul ponte se bisogna rinnovare l'accordo con i Benetton. Sì, il problema è che in questi giorni con le autostrade liguri messe così partono, ma non si sa quando arrivano. Vabbè, si mettono in fila, perché oppure facciamo una corsia preferenziale per le sardine, cosa giusto, è implicita nella tua chiosa, perché io lo so che tu vuoi una corsia preferenziale delle sardine, e l'anno prossimo, se ci saremo ancora, faremo una puntata ogni giorno, almeno una volta alla settimana sulle sardine. Perché sappiamo tra l'altro che tu sei il leader occulto, no? Il foto grande vecchio dietro le sardine. Senti Paolo, al di là però di tutto... non ci sono solo le sardine, sì, per esatto, ridere oggi i giornali sono tutti a ridere. Non so se hai notato, certamente hai notato questa dichiarazione di Prodi a favore di Berlusconi, dicendo sì, in fondo è accettabile, li ha fatti scattare tutti i giornali secondo dei riflessi condizionati. Io oggi suggerirei a chi ci ascolta di comprarsi i giornali che vado ad elencare. Sono primo Il Fatto, Il sì. Fatto Quotidiano, che ha dedicato la vita alla battaglia contro Berlusconi, dice ancora tu, ma non dovevamo vederci più, prende il verso della famosa canzone di Lucio Battisti, e poi giù, pagina e pagina, a ricordare Vittorio Mangano, il mafioso, Stefano Bontade, Licio Gelli, e una interroga tutti i suoi collaboratori illustri, ma è giusto riabilitare Berlusconi, non ti dico. Paolo Flores da Sky, il miraggio del Colle non può valere il ferimento. Nadia Urbinati, sarebbe un guaio dargli potenti di un'onorabilità. Furio Colombo, da Rubi alla Libia, i democratici stiano alla larga. Scusa, leggo in modo sì. pasticciato. Sì, fanno... Scanzi, non scordiamoci che l'antenato dei due Matteo, e ancora Caselli, Giancarlo Caselli, meglio stia fuori. Caselli è più morbido. Sì, perché dice meglio star fuori che stia fuori, ma occhio ai barbari alle porte. E questo significa, se sappiamo leggere, di fronte all'eventualità che si affacci Salvini, barbari sta per Salvini e magari... Sì. Un piccolo patto con Berlusconi lo si può fare. Invece la verità schifa, dice, sinistra in ginocchio da Berlusconi, dopo settimane di corteggiamento persino Prodi apre il cavaliere in maggioranza e ironizza sulle cose. Il foglio dice è arrivata l'ora, viva il partito degli ex premier. E Libero svela, ritiene di svelare il giochetto, dice è chiaro, sono quasi amici Prodi e Berlusconi perché hanno un patto, Mortadella al Colle, cioè Prodi sì. al Quirinale e Silvio senatore a vita. Sì. Ora io non ci credo neanche che ci sia questo patto, ma se ci fosse dovrebbero fare lo scambio come sul Checkpoint Charlie, cioè nello stesso ora, nello stesso minuto, perché sennò il primo che riceve il dono, sì. Prodi, frega il secondo, ma è sicuro, sicuramente. Quei due sono fatti per fregarsi l'un l'altro, perché sono personaggi di diversa moralità, ma lo scrive anche Maurizio Belpietro, no? Che l'ipotesi appunto è che Prodi torni a correre per il Quirinale, naturalmente non sa lì, la grande incognita invece è Paolo Mieli, come i nostri ascoltatori sanno, cioè, il grande concorrente. Io non posso parlare perché essendo concorrente di Prodi in questo caso, solo in questo caso, a me il posto di senatore a vita non interessa, perché lì ho l'esempio Fulgio di Montanelli che rifiutò quando glielo diede Cossiga, ormai rende obbligatorio per un giornalista rifiutare il posto di senatore a vita. E Quirinale, onestamente, un pensierino ce lo faccio, e quindi giù adesso nelle prossime... Adesso silenzio, no? Per il momento silenzio, star zitti, perché se esce il nome poi non circola, viene bruciato. Gad Lerner, che è un amico di Prodi quasi come siamo io e te, no, un po' meno, ma insomma è molto molto amico di Prodi, dice ma tu sei pazzo, stai facendo un errore, ma quando mai, te lo sogni il Quirinale? Effettivamente per Prodi correre nel Quirinale con questo Parlamento, ci sono i 5 Stelle, il PD che già lo ha impallinato la volta precedente, e se deve fare affidamento sulla truppa di Forza Italia, insomma è una corsa spericolata, però sai, a quell'età uno si può divertire, ma ti sembra che sia l'unica cosa su cui divertirci oggi? No, ce ne sono almeno un'altra. Beh, c'è almeno lo palco, Lo palco, che è il primo virologo che si candida col PD in Puglia, e quindi adesso parte la ridicola corsa dei virologi a candidarsi, ma io penso almeno aspettino la corsa per il parlamentare, per il deputato, il senatore, addirittura candidarsi per fare il consigliere in Puglia, non so, si accontentano di poco, oppure sanno che la loro stagione, anche loro sfiorano il ridicolo, la loro stagione volge al termine, quindi tanto vale accaparrarsi un posticino in Puglia, perché ora che si arriva alle elezioni politiche campa cavallo. No, ma io parlavo di un'altra notizia che fa ridere, che avendo preso sede a Via delle Botteghe Oscure, Matteo Salvini, a un certo punto ha fatto una battuta, ha detto: ma perché io sono un erede di Berlinguer? Era ovvio che era una battuta, figurarsi, sì. Se Matteo Salvini. Ma hanno abboccato, a me piace moltissimo come abbocca la sinistra, immediatamente dichiarazioni sdegnate, Emanuele Macaluso è indegno, come sì. Fa a fare questo paragone? Zingaretti questo, che dice chiamate il 118, Anche questo serve, oggi davvero le pagine, se uno le legge come pagine di giornali per sorridere, farsi una risatina, insomma sono adatte, ecco, oggi è un venerdì di giornali divertenti. Divertenti, non fosse che appunto la situazione è seria. Ci segnalano che Lopalco è epidemiologo, non virologo, giusto. Bravo, correggi sempre. Traffico. La scena, caro Paolo, continua a essere dominata in parte da due questioni, mi sembra, però un po' più seriamente, anzi da tre questioni. Una è sicuramente quella del virus, c'è la questione autostrade e la questione europea e degli aiuti europei. Su questo lo faccio io perché tanto tu non lo fai, vi segnalo l'editoriale dello stesso Paolo Mieli oggi sul Corriere della Sera che allarga il tema un po' all'azione politica di questo governo. Passiamo oltre. E però c'è il tema del virus sul quale aprono molti quotidiani, arrivi vietati da 13 paesi, scrive il Corriere della Sera. Qui ti fermo perché è vero, tutti dicono e fanno l'elenco dei 13 paesi a cui noi abbiamo posto il veto, però io anche qui voglio invitare a essere seri. Quando ce lo posero a noi nel pieno dell'epidemia, ci avvolgemmo tutti nella bandiera perché l'Austria e la Grecia disse: beh, aspettiamo prima di far entrare gli italiani. E ci avvolgiamo nella bandiera, diciamo indegno, facciamo delle note diplomatiche, proteste, viaggi per fare sbloccare questi diritti. Ora, questa storia della circolazione del virus ce ne accorgiamo con i migranti provenienti dal Bangladesh, è seria, quindi impariamolo per la prossima volta. Se dovesse ricapitare a noi e dovessimo avere una nuova ondata pandemica, sarà ovvio che i paesi confinanti chiudano le frontiere nei nostri confronti, come noi oggi, ecco, ricordiamoci che noi oggi le stiamo chiudendo a 13 paesi, cioè non è una cosa di offesa al patriottismo altrui, è una cosa che si fa, si chiudono le frontiere. La Cina, quando ebbe il virus a Wuhan, chiuse le frontiere dello stato di Wuhan alle altre, anche frontiere interne, in fondo fare le zone rosse è chiudere le frontiere delle zone rosse, no? Se si fa dentro il territorio italiano. Quindi ricordiamocelo, questo è una cosa da tenere ben presente. Poi c'è tutto il capitolo, visto che parliamo di virus, dell'Italia che in vista del Consiglio europeo del 17 luglio sta andando in giro. Conte ieri è andato da Rutte, cioè dal premier olandese, gli ha spiegato, io lo leggo da un articolo bellissimo di Gerardo Pelosi, bellissimo in quanto puntuale, sul Sole 24 Ore è andato a spiegargli che abbiamo fretta e il ritardo danneggia anche l'Olanda. Ora, siccome noi siamo un paese un po' che chiediamo sussidi, andare in giro a spiegare agli altri, guarda, conviene anche a voi, è qualcosa che conferma la fama dell'italiano imbroglione, no? Quello che viene, tu dici, chiede dei soldi e ti dice: guarda, ti conviene darmi, dammi retta nel tuo interesse. Fa una cosa più seria, no? Le Confindustrie italiane e olandese, perché hanno fatto un documento insieme, articolo di Nicoletta Picchio, sempre sul Sole 24 Ore, per spiegare il sì degli industriali al Recovery Fund. Questo è una cosa seria, nel senso che ci si mette insieme e si vedono i punti di convergenza e perché sì, e perché conviene questo ricorso. Sì, chiedono una risposta europea alla crisi, sì agli aiuti ma con responsabilità, e chiedono anche un rafforzamento del mercato unico. Vi e segnalo, poi visto che ci siamo, guarda, non ci sono, insomma la situazione è complessa perché all'Eurogruppo doveva essere eletto presidente una spagnola, invece, articolo di Pedro Romano, pagina 2, sul 24 ore, hanno eletto l'irlandese Donoghue, che è un frugale, diciamo sì, così, cioè uno di quelli severi. O un semifrugale, quantomeno, ecco. Vabbè, tu sei sempre per gli attenuativi, però se dividiamo il mondo in frugali e non frugali, vabbè, con i frugali, le sfumature e questo significa che in Europa non diamola per scontata la partita, perché sì, ci sono paesi che di fronte alla prospettiva di regalarci dei soldi di cui noi non vogliamo rendere conto, sia pure in un contesto drammatico, per carità, io qui mi avvolgo io nella bandiera e faccio il patriota, però dicono, scusa, se noi te li regaliamo, però vogliamo vedere che uso ne fai. E come dargli torto? Sì, sì, qua appunto Adriana Ceretelli firma un commento che parla della Merkel, del ruolo della Merkel, una cancelliera sempre più europeista, cerca il compromesso tra solidarietà e controlli. Ah, voglio segnalare tra l'altro agli ascoltatori, visto che siamo sul Sole 24 Ore, che domani è in uscita insieme al Sole 24 Ore, in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli, il libro del figlio Umberto Ambrosoli, Qualunque cosa succeda, con una prefazione di, perché è un libro del 2009, con la prefazione di Carlo Azeglio Ciampi, della quale oggi viene riportato un passaggio appunto sul Sole 24 Ore. Paolo, a chiudere, resterei sulle cronache di Covid e ti porterei in Sud America, dove il virus continua a colpire capi di Stato o alte istituzioni. Bolivia, Venezuela, però questo è un caso, Venezuela non numero uno Maduro ma un suo vice, è un caso veramente significativo, perché è come se quando ad aprile ci fu la pandemia europea fossero stati colpiti, oltre a Johnson, che fu colpito come è noto, ma anche il presidente della Francia, il vicepresidente dell'Italia. Sì. Insomma, è una cosa che segnala che lì si sono rotti gli argini. Sì. E segnala quindi, di conseguenza, che non siamo nella fase discendente, ma che nel mondo questa cosa rispunta in maniera violenta qua e là, e purtroppo, sottolineo purtroppo, quell'idea che ci eravamo fatti che l'estate portava via il virus dappertutto non è così, anche perché in Sud America non è estate, come è noto, inverno, quando è estate da noi, inverno da qualche altra parte, e quindi il virus probabilmente sì, continuerà a furoreggiare anche nei prossimi mesi, e poi vedremo in autunno, dove la ministra Lamorgese, anche questa è su tutti i giornali, sì, dice ci saranno scontri, ci saranno pericoli, lì si vedrà la vera crisi, e vorrei aggiungere io, è evidente che si sì, vedrà la vera crisi, perché se si continuano a gestire i denari pubblici in questo modo, cioè fra rinvii, annunci e stupidaggini varie, alla fine questi soldi sì, saranno stati buttati dalla finestra. Dobbiamo veramente chiudere, grazie Paolo Mieli, ci ritroviamo lunedì, Paolo, GR24, buon weekend, buon fine settimana, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, i nostri ospiti, Danilo Toninelli, e poi parliamo di concessioni balneari, ciao, ciao.